po' banale la scelta di bollicine di Vasco Rossi, però parliamo di bere d'estate, bollicine o no? Abbiamo con noi il nostro gastronauta Davide Paolini. Ciao Davide! Ciao, buona giornata! Allora Davide, un po' con le bollicine, un po' no, i riti sono tanti. Beh, guarda, bollicine mi richiami subito, diciamo, quello che quest'anno io vorrei lanciare come moda dell'estate. Una moda quale? Che risale lontanissimo nel tempo. La gazzosa. Oh, la gazzosa, mi ricorda subito la mia infanzia. Infatti a molti ricorda la propria infanzia, ma voglio darti due note sulla gazzosa, perché a me piace andare a vedere anche un po' la storia. Tu pensa che la gazzosa è nata praticamente a Bologna, però sviluppata in Molise ad opera di un farmacista, perché molte cose, a cominciare dalla Coca-Cola, sono nate sempre per il merito di un farmacista. La gazzosa è nata lì, ma poi si è sviluppata. Addirittura c'è chi si ricorda ancora che c'era una gazzosa che aveva la pallina per permettere che non, diciamo, quando la bevevi, quando trangugiavi, non andassi giù. Mi hanno fatto vedere una bottiglia con con la biglia di vetro proprio dentro. Aveva il collo della bottiglia era stretto per non far uscire questa pallina, e dentro c'era una pallina. Ecco, magari faccio anche un lancio SMS o WhatsApp. Chi avesse una di queste bottiglie, mi dica dove la posso trovare, perché mi piacerebbe molto possederla. Ma ti dirò che la gazzosa sembra così, è una bevanda di una semplicità enorme, insomma, quindi addirittura banale. Però si può, dalla gazzosa possono nascere tantissime cose. E allora io vado in Calabria dove c'è una tradizione incredibile di una bibita che si chiama la brasiliera. Cos'è la brasiliera? La brasiliera è in provincia di Cosenza, e a Cosenza, su tutto il lungomare, ci sono dei chioschi che vendono la gazzosa e caffè. Ecco, ed è veramente d'estate, io la amo moltissimo, si trova solo lì. Un tempo si trovava anche in bottiglietta, però è difficile trovarla in giro per l'Italia. Ma è una bevanda povera questa qui, poverissima, ma io devo dire che può essere la succedanea a tante altre bibite che costano molto di più e che sicuramente non si sa esattamente la provenienza o cosa c'è dentro. Bene, la brasiliera però deve essere fatta con caffè vero, ecco, perché anche qui bisogna distinguere. Ci sono delle brasiliere che non sono fatte come Dio comanda, ci vuole un caffè vero, e poi con questa, diciamo, mescolatura, questo mix, diciamo, come un cocktail con la gazzosa, diventa veramente una bibita molto interessante da bere in estate. Bere in estate perché, come dicevo, è una bibita molto sana. Chi piace il caffè, per esempio, e magari ne ha già bevuti tanti, questa può andare benissimo. Però anche la gazzosa con la birra, altro diciamo bere da osteria, che può essere portato anche nelle serate al mare, magari in locali molto scicchettoni. Può essere, uno fa, ordina una gazzotta e la birra, magari tutti attorno si girano e dicono: ma dove arriva questo, da dove arriva? In realtà è buonissima. Poi c'è la gazzotta col vino, e quindi è un'altra, diciamo, quando c'è la calura, perché no? La gazzosa con un vino che non deve con essere... Quale vino? Con quale vino? Ma di solito c'è un vino rosso, bisogna mescolarla con il vino rosso, un vino che non sia, diciamo, non si può mettere il Barolo con la gazzosa, sarebbe una... No, non dico qualche vitigno, perché poi la gente dice: ah no, cosa sta dicendo questo, ci snobba il nostro vino. Un vinello normale rosso, magari di contadino, ecco, può essere benissimo questo... un vino della casa quando si va in qualche locale. Insomma, la gazzosa, secondo me, è da riportare alla ribalta. Una bibita che è già tornata alla ribalta, ma ha avuto anni bui anche questa, è il chinotto. Certo. Bene, il chinotto, qui c'è una bella storia, perché esisteva una canzone degli Schiantos che era sul chinotto, molto interessante. Esiste un film, esiste un libro, c'è uno scrittore che ha scritto un libro sul chinotto. C'è un'associazione degli amanti del chinotto. Ecco, il chinotto io lo trovo veramente una bibita che si differenzia da tutte le altre. Purtroppo succede che molta gente non sappia cos'è il chinotto. Molti si immaginano che sia una bibita completamente inventata, come può essere la Coca-Cola. E no, cari signori, il chinotto è una pianta. È una pianta che assomiglia molto al mandarino, e diciamo che i frutti sono verdi. è molto, diciamo, molto, molto agrumata, non è facile, cioè, diciamo che il frutto non si mangia, però si può ottenere una straordinaria marmellata. Tra l'altro c'è un convento delle suore in Liguria che lo fa in maniera straordinaria. Si possono fare il chinotto in tante altre maniere, però non si può assolutamente mangiare perché è molto molto molto forte. E quindi il chinotto è un'altra bibita che va. Poi c'è la cedrata. Ah, la bella cedrata fa subito estate, anche la pubblicità, la vecchia pubblicità della cedrata, che è sempre la stessa, fa subito estate. Tra l'altro c'è un'azienda italiana che produce cedrata, che è famosa in tutta l'Europa, esporta in tutta l'Europa, pensa te, è una cosa così semplice. Poi il cedro non è che sia molto, molto reperibile in Italia, se non in una zona della Calabria, è una zona anche, diciamo, vicino ai laghi italiani. Però c'è la cedrata, è un'altra bibita che si differenzia, quindi si va sull'originalità. Poi ancora il latte di mandorla. Il latte che di va mandorla molto di moda ultimamente, ne sento parlare tanto. Latte di mandorla e latte di cocco sono un po' così particolarmente in voga, nonostante siano comunque dei classici. Ma il latte di mandorla sta ritornando molto perché ci sono molte persone che sono allergiche al lattosio. Quindi va, ma il latte di mandorla è straordinario, devo dire. Io lo amo molto, specialmente quello poco zuccherato, perché in giro si trova del latte di mandorla che viene aggiunto molto zucchero, allora gli diventa un po', diciamo, un po' troppo forte come latte. Ma il latte di mandorla io lo trovo incredibile. C'è, diciamo, ci sono cuochi di cucina vegetariana che con il latte di mandorla fanno anche, lo usano molto, molto in cucina, e fanno anche delle cose molto particolari, alle quali con il latte di mandorla viene dato un sapore particolare. Poi la mandorla è sicuramente un prodotto molto importante. Certo. Molto importante dal punto di vista salutistico e dietetico. Poi, visto che abbiamo parlato di latte di mandorla, io consiglio il latte menta, molto freddo. Ah, quanto mi piace! Mi ricorda anche questo un po' l'infanzia. Ma sai, tutte queste bibite sono dell'infanzia, però magari se uno le beve è il famoso ritorno al passato, la memoria, il ricordo, è la madeleine. Insomma, per molti latte menta e la madeleine come l'orzata col ghiaccio è un'altra madeleine. E qui torno a quello di cui avevo accennato la settimana scorsa, dei grattachecca, che sono questi boschetti romani, specialmente sul Lungotevere, che fanno appunto dalle lastre di ghiaccio, grattano da quel grattachecca, tirano fuori, diciamo, il ghiaccio tritato, invece lo tritano a mano invece che tritarlo come si fa oggi con strumenti moderni, poi aggiungono appunto orzata, menta o d'altro, e devo dire che nelle serate d'estate, anche specialmente romane, questo può andare benissimo. Poi tu mi hai detto il vino, ecco, arriviamo al vino. Certo che il vino con le bollicine è tipico dell'estate, perché tutti pensano a delle serate particolari, alle terrazze, ai posti in riva al mare. Beh, io direi che si possono bere anche dei rossi freddi, e chi non ama appunto il vino bianco, le bollicine, può ricorrere anche a dei vini rossi, non tutti ovviamente, ma ad esempio il Lagrein, il Pinot Nero, sono ottimi da servire molto freddi. Poi i bianchi ce ne sono veramente a iosa, l'Italia ormai in tutte le regioni produce vini bianchi, quindi anche qui chi li vuole fruttati, chi li vuole invece con un retrogusto molto secco. Io credo che ci sia una varietà incredibile. Poi, visto che abbiamo parlato anche di caffè, devo dire che un'altra cosa estiva, secondo me, è il caffè sciacquerato. A questo proposito ti leggo il messaggio di Roberto da Bari, che dice che in Puglia si beve il cosiddetto caffè leccese, un normale caffè caldo che poi viene versato in un bicchiere pieno di cubetti di ghiaccio e latte di mandorla. Caro Roberto, mi hai convinto, ci voleva poco, ma mi hai convinto. Allora, ti posso dire che si beve anche a Milano. Si beve anche a Milano perché c'è un locale in Brera, che si chiama Salentini, dove hanno portato proprio questa, diciamo, moda leccese, moda del Salento, hanno portato a Milano con grande successo. E devo dire che, visto che avevo parlato di latte di mandorle e di caffè, io non avevo citato questa cosa, ringrazio questo radio ascoltatore, ma io sono solito berlo d'estate. Ah, vedi? Quindi, io non lo conoscevo, invece Davide Paolini già lo conosceva. Davide, ti leggo un paio di messaggi per chiudere certo. questo spazio e poi darci appuntamento al prossimo sabato. Sì. Fabio ci dice che la brasilena che è originaria della provincia di Catanzaro viene venduta anche a Milano. Fabio, dimmi dove, perché la voglio provare. E invece Nicola ci consiglia due abbinamenti: latte menta con brancamenta e succo di pera con latte di suocera, che scopro essere un liquore che io non conoscevo. Davide, ci sentiamo il prossimo sabato, il prossimo appuntamento col gastronauta, l'ultimo appuntamento del sabato del villaggio in diretta, il prossimo sabato. Va bene, a presto. Ciao Davide, a presto. Ciao.